Paolo VI ha venduto la tiara e ha donato il ricavato. Il papa che prima di lei ha portato il suo nome, Benedetto XV, dopo la prima guerra mondiale, ha dato fondo alle casse per dare soldi ai poveri. Anche oggi il mondo attende un gesto simbolico del Vaticano, segni che esprimano in modo visibile e accessibile a tutti la serietà di una purificazione e del rifarsi alle origini della Chiesa apostolica. Quando Benedetto XVI farà sul serio circa il dictum per il quale la Chiesa deve distaccarsi dai suoi beni per garantire il proprio bene? È un'espressione che Pio X usò durante la crisi in Francia, quando si trovò di fronte alla scelta di accettare il sistema statale, cosa che avrebbe avvantaggiato la Chiesa ma l'avrebbe posta sotto il controllo dello Stato, oppure di rifiutarlo e vivere in povertà. Il bene viene prima dei beni. Questo è un criterio sempre valido che deve essere preso in considerazione in ogni nostra decisione, soprattutto in quelle politiche. Tuttavia, non ci si può privare a cuor leggero di beni fin quando sono utili per servire. Bisogna chiedersi invece fin quando una determinata cosa serva l'insieme. Mai dovrebbe accadere che i beni ci dominano, che a loro assoggettiamo il bene, ma il contrario.